Il centro studi in Via del Sole, 15 novembre 392 d.C. Nonostante il rogo del Serapeo, le autorità cittadine non sono riuscite a ottenere dal prefetto imperiale la concessione di un edificio pubblico per il nostro centro studi e per una nuova biblioteca. E allora Ipazia ha voluto che la nostra attività continuasse qui, in Via del Sole. Ha fatto ingrandire l'Aula Magna, rinunciando a metà giardino, alle due bellissime edicole a timpano triangolare con i fregi e architrave, il cui soffitto era ornato con delicati intagli di strumenti astronomici. Ha rinunciato al triclinio e a metà a tablinio, e una sistemazione accettabile, visti i pochi rotoli di cui disponiamo e visto che siamo rimasti soltanto in otto. Nei roghi della biblioteca e della nave, il 21 agosto dello scorso anno, perirono Teone, Zev, Ausenzio e Zosimo, mentre Olimpio e Ottavia si sono ritirati. Claudio, Claudiano e Olimpio si sono rifugiati a Roma e Ladio e Ammonio a Costantinopoli. I fratelli di Ipazia, Epifanio e Atanasio, sono sempre in viaggio e solo raramente passano per Alessandria, fermandosi qualche giorno qui da noi. Mio padre ha fatto di tutto per convincermi a tornare a casa. Vuol continuare con la manifattura dei fogli di papiro, essendo riuscito ad assicurarsi un carico di piante ogni 6 mesi da Siracusa, ma io sono stato irremovibile. Il mio destino è qui, accanto a Ipazia. Dopo la morte del padre, la mia maestra si è rifugiata nello studio con un'abnegazione che rasenta l'insania. Il piccolo laboratorio adiacente alla biblioteca è diventato la sua stanza da letto, perché lei abbia sempre a portata di mano l'occorrente per le sue ricerche. Dorme 3 ore al giorno. Non ha bisogno che nessuno la svegli. Ormai ha programmato la sua mente ad allentare la presa ferrea che ha sul suo destino solo durante quelle poche clessidre per notte. Si sveglia lucida, come se la sua mente avesse continuato a elaborare. Possiede energie nascoste e inconcepibili per un essere umano. Unici rari momenti di tregua, la musica e il pane. Ogni tanto mi chiede di accompagnare con l'aulos la sua cetra e la sua voce. Ma le ombre del giardino non riescono a ricreare la magia di quel sole che si nascondeva nel polverio infuocato del mare davanti al tempio di Posidone. Ogni lunedì, poi, è lei ad impastare il pane. Io aiuto solo a infornarlo. Ci basta per tutta la settimana e ogni giorno che passa sembra più buono. È l'eredità della madre, un legame ancestrale a cui non rinuncia quasi mai. La scorsa settimana, mentre io toglievo dal forno le braci, Ipazia aveva già finito di preparare i tocchi d'impasto e si stava attardando a modellare la pasta avanzata, come faceva spesso con latte e miele per farne dei dolci. Ma i suoi lineamenti non erano distesi. Mentre le dita davano vita a due forme umane, un maschio e una femmina, con le braccia protese verso l'alto, due danzatori forse, le dita nervose di Ipazia modellarono le mani delle figure, le unirono, si chiusero le braccia alla fanciulla di pasta. Le braccia del danzatore si abbassarono, le mani cinsero la vita della fanciulla, gli occhi della mia maestra erano spauriti, mentre il ventre della danzatrice cercava quello dell'uomo. Io mi avvicinai al bordo del tavolo, caddi in ginocchio, le mani tremule di pazzia di fronte al mio volto infuocato. Sollevai lo sguardo, incontrai la sua paura e cercai di bloccare le sue mani che si accingevano a schiacciare le due figure. Le sussurrai, che erano bellissime, che non era giusto che le distruggesse. Lei scosse la testa lentamente, il volto in fiamme. Sentì i muscoli delle sue mani tendersi, le dita premettero sulle figure che si cercavano, riducendole all'impasto primordiale. Sono 2 ore che ci sta spiegando il funzionamento dell'astrolabio. È lei che l'ha ideato e costruito. Negli ultimi 2 mesi io l'ho soltanto aiutata. È incredibile quanto sia abile manualmente. Ci ha mostrato innanzitutto quello ideato da Iparco di Nicea e realizzato proprio qui ad Alessandria 450 anni fa, l'astrolabio con il quale aveva potuto compilare il primo catalogo stellare, costituito da due circoli concentrici girevoli. La particolarità di questo strumento è la sua versatilità. Può contribuire moltissimo alla navigazione, dando la possibilità di riconoscere le stelle e di misurarne l'altezza, ma è utilissimo anche a tutti gli studiosi come noi che vogliono approfondire e divulgare l'astronomia. L'astrolabio potremmo chiamarlo anche planisfero celeste e si sofferma a guardarlo, poi l'afferra con le mani e lo protende in alto sulla testa. Questo Questo congegno ci mostra il cielo esattamente come lo vediamo noi. Infatti, il confronto cielo-strumento va fatto tenendolo proprio in questo modo. Mentre se lo posiziono qui sul tavolo e lo poggia, i sensi di rotazione risultano invertiti. Samuel sta per interromperla quando le orecchie a sventola di Epicrate si affacciano alla porta. In mezzo alle sopracciglia foltissime, gli occhi arrossati ci lanciano sguardi supplicanti. Appena i pazzi avvolge il capo verso di lui, il piccolo uomo comincia a parlare a scatti, accompagnandosi con una mimica delle mani che esprime ansia e spavento. Che problema c'è, mio buon Epicrate? Fai accomodare il prefetto, lo riceverò qui nell'aula magna. Nell'atteggiamento e nella voce della giovane scienziata non c'è traccia di timore reverenziale, e questo deve stupire non poco Epicrate, che gira su se stesso e corre verso il giardino. Poco dopo entra il prefetto augustale Evagrio, che indossa la clamide delle grandi cerimonie. Due curiali rimangono sulla porta. I pazzi gli indica una sedia di fronte a noi, accanto al tavolo su cui lei ha deposto l'astrolabio. L'uomo ci porge un saluto, stringendo tra le dita ingioiellate un rotolo. Fissa con attenzione le carte astronomiche appese alle pareti, accarezzandosi la barba ricciuta. Infine osserva con curiosità lo strumento. Siete riusciti a completarlo, eh? Rivolge ai pazzi uno sguardo benevolo, nel tono morbido lo sforzo di mostrarsi gentile. Con un anno di ritardo e con un anno di lavoro in più, siamo dovuti ripartire dalle ceneri della biblioteca del Serapeo. E si rifugia con lo sguardo nell'astrolabio. Oltre a mio padre e a Zev, in quel rogo andarono bruciate tutte le mappe celesti e i calcoli indispensabili per la costruzione di questo strumento. E torna a fissare il prefetto. Assieme a trattati di farmacologia, meccanica, fisica, astronomia, carte nautiche, trattazioni sul corpo umano, vennero distrutte ricerche di secoli e secoli che avrebbero migliorato il cammino umano, studi preziosi per l'intero genere umano. Evagrio arrotola il foglio, concentrando la sua attenzione su questa operazione. I vostri antenati non operarono una scelta felice. Mai avrebbero dovuto inserire la biblioteca in un tempio religioso. Srotola il papiro, la rotola, alza lo sguardo sui pazzi, è rimasta in piedi. La biblioteca ha pagato colpe non sue, e né io né l'imperatore avevamo alcun interesse nel vederla distrutta. Se me lo permettete, invece è il carattere litigioso di voi alessandrini che ha causato tutto questo. Del mio avviso sono anche Ipatio e Potamio. Hanno resistito pochi mesi, poi hanno chiesto di essere trasferiti in qualunque altra parte dell'impero purché lontana da Alessandria. E così è toccato di nuovo a me. Per un attimo gli occhi di Pazia incontrano i miei. Deve leggervi la mia voglia di rispondere a Evagrio, di gridargli la verità in faccia. Non me ne lascia il tempo. Prefetto, risparmiateci certi discorsi. La biblioteca del Serapeo venne bruciata dai monaci, del vescovo e da gentaccia come loro, ma le guardie permisero tutto e protessero quella marmaglia. L'ordine di distruggere i templi lo dette l'imperatore e tu lo facesti eseguire. Si morde le labbra con quel gesto che è momento di riflessione per richiamare alla mente un particolare importante. L'imperatore Caracalla chiuse le associazioni professionali di Alessandria non perché talvolta si riunivano e magari scorreva qualche boccale di vino di troppo, ma perché lottavano per i loro diritti, perché avevano capito che uniti erano più forti, perché le volte che tutti insieme panettieri, mugnai, confettieri, profumieri, droghieri, fiorai si erano rifiutati di lavorare, avevano messo in crisi l'intera città. Il commercio, tutto. L'imperatore Caracalla chiuse le associazioni professionali di Alessandria non per il carattere litigioso di noi alessandrini, ma perché le loro lotte potevano essere di esempio a quelle di Roma e dell'impero. Lo inchioda alla sedia con i fieri occhi azzurri. Perché noi alessandrini, prefetto Evagrio, amiamo la libertà e nessuno riuscirà mai a soffocare questo nostro sogno. Evagrio stropiccia il papiro tra le mani. Per essere solo una studiosa non ti mancano certe argomentazioni politiche. Meglio così, potremmo intenderci. Sin dallo scorso anno l'imperatore mi ha ordinato di spronare le autorità cittadine e tutte le persone che possono avere influenza sulla vita pubblica e sociale. di Alessandria, ad adoperarsi per un riavvicinamento nei confronti degli elleni e ribelli. A te mi sono rivolto solo ora per rispettare il dolore della perdita di tuo padre. Erculiano e Shalim sono gli unici cristiani del centro studi, ma sono estremamente critici verso il vescovo, nonché patriarca. Davide e Samuel sono ebrei. Io, Nicandro, Valeria ed Esichio siamo elleni, anzi, pagani, come dite voi, in segno di disprezzo. Elleni con un'insopportabile pena nel cuore perché avete permesso che distruggessero i nostri templi. Dove un anno fa sorgeva il tempio di Serapis, ora è stata costruita la chiesa di San Giovanni Battista. E dove una volta c'era il tempio di Augusto, il Cesareo, ora sorge la cattedrale patriarcale cristiana. Sulle rovine di decine e decine di templi elleni ora si ergono chiese cristiane. Dunque chi si deve riavvicinare a chi, prefetto? Evagrio arrotola e srotola nervosamente il papiro. Voi, i componenti di questo centro studi, siete stati considerati persone capaci di influenzare positivamente altri cittadini di Alessandria. L'imperatore si aspetta da voi una promessa affinché vi adoperiate per facilitare la conversione al cristianesimo di tutti gli elleni e di tutti gli ebrei con cui siete in contatto. Ipazia, senza distogliere lo sguardo dagli occhi obliqui dell'uomo, si mette a sedere su uno scanno. Quindi, se vi aspettate una promessa del genere, partite dal presupposto che noi per primi ci convertiremo. L'imperatore Teodosio vuole un impero romano completamente cristiano. Non può attendere il lento processo di evangelizzazione che sta portando avanti la Chiesa. Per questo è sceso in campo emanando un editto dietro l'altro. Per questo ha incaricato noi prefetti di adoperarci per facilitare e accelerare il processo di conversione. Vescovi, prefetti, consoli, autorità cittadine, autorità scientifiche e culturali, campioni sportivi, tutti assieme per un unico grande impero cristiano. E si passa una mano nervosa sulla chioma. E in Egitto, soprattutto qui ad Alessandria, si gioca la partita più importante, vero, prefetto? Perché questa città è crocevia di culture diverse, qui ci sono tutte le religioni, qui sono rappresentati i gruppi etnici di mezzo mondo, qui si è sviluppata la cultura greca, qui è nata la scintilla del pensiero libero, qui si sta diffondendo l'uso della ragione. E una volta diventata completamente cristiana Alessandria, il Nilo in piena potrà travolgere qualunque contrada, e dall'Egitto inondare l'Augustianica, l'Arcadia, la Tebaide, la Libia, la Pentapoli e poi Roma. E poi il mondo intero. Scuote la testa, dimenando i lunghi capelli ribelli. Prefetto, non ti sei rivolto a me solo adesso per rispettare il dolore della perdita di mio padre, ma perché sapevi che era un'impresa impossibile. Ma sei un funzionario dell'impero, diligente e scrupoloso, e vuoi sentirti a posto con la coscienza per averci almeno provato. Evagrio, con un nervoso tormento delle falangi, sta riducendo a piccole pieghe il rotolo che ha tra le mani. Con lo sguardo abbandona i pazzi e ci osserva uno per uno. Il vostro più grande interesse è la ricerca scientifica, lo studio, l'indagine. Per voi questo centro è più importante di una chiesa, di un tempio o di una sinagoga, per questo ho pensato di chiedere la vostra collaborazione, anche perché si potevano creare le condizioni per più cospicue sovvenzioni ed esisteva una possibilità di farvi ottenere un intero piano in un edificio pubblico, forse anche nel faro. E sbatté le palpebre, ammiccando verso l'astrolabio sul tavolo. I miei compagni si muovono nervosi nei loro scanni. Valeria, che mi siede accanto, mi prende una mano con la sua, cerca di tenere a freno la mia indignazione. Ipazia legge la rabbia sui nostri volti, attende che il prefetto alzi lo sguardo su di lei. Se ci facessimo comprare, non saremmo più liberi e non potremmo più studiare, capisci, prefetto? È così che funziona una mente libera. Anch'essa ha le sue regole. Per questo, Evagrio, non ci provare più con nessuno di noi. Lo fissa con occhi severi, incorruttibili. L'uomo si alza in piedi, sfiora con un dito l'astrolabio. Ci fissa uno per uno, quasi a chiedere conferma. Deve leggere sui nostri volti la stessa determinazione della nostra maestra. Teofilo me l'aveva detto di non farmi incantare dalla tua dialettica, perché ciò che tu e i tuoi allievi volete realizzare è mettere in discussione il potere delle gerarchie, il potere dell'imperatore, per far trionfare gente come voi, ovvero sia l'autorità che deriva dalla cultura. Con le falangi segue i contorni dell'astrolabio, affinché possiate sentirvi completamente liberi e senza il peso di alcun condizionamento. A partire da oggi vi verrà revocata anche quella piccola sovvenzione che finora l'imperatore elargiva al vostro centro studi. La mano di Valeria stringe con più forza la mia, mentre questo maledetto ci guarda tutti per vedere l'effetto che ha prodotto su di noi. Ipazia alza la testa, un bagliore di fierezza sul volto. Oltre a questo, sono venuto per leggervi il quarto editto che l'imperatore Teodosio ha emanato l'8 novembre. Verranno confiscate tutte le abitazioni dove si svolgeranno riti non cristiani. Sono proibite libagioni, gli altari, offerte votive, torce, divinità domestiche del focolare, corone e ghirlande e fasce sugli alberi. Poi, con la mano sinistra, svolge il papiro, aggrottando la fronte come alla ricerca di un dettaglio che gli era sfuggito. Per finire, per i pagani o per gli ebrei che effettueranno sacrifici o pratiche divinatorie, viene sancita la pena di morte. La voce aspra del prefetto è impregnata di malcelata soddisfazione. Abbandono la mano di Valeria, artiglio lo stallo su cui sono seduto, mentre Ipazia, scuotendo il capo sconsolata, fissa il prefetto con un'espressione di amarezza che piega le sue labbra. Prefetto, il cristianesimo segnerà la fine dell'impero romano e Teodosio è il fautore di questo progetto suicida. Ipazia aggiunge le mani, sfiorandosi le labbra con le dita. Evagrio la fissa a lungo, sguardo vitreo, faccia cupa. Mi piacerebbe conoscere le radici di questo tuo pensiero. Ah, è talmente semplice che resto stupita dal fatto che l'imperatore non ci abbia riflettuto. Teodosio è riuscito a riunire l'impero d'Oriente ed Occidente, ma ha il terrore dei barbari e allora vuole opporgli una diga, il cristianesimo. Un nuovo modo di tenere unito l'impero romano attraverso una forte disciplina. Ma quale cristianesimo? Questo cristianesimo? Di certo se avesse deciso di promuovere quello vero, quello che proibisce il servizio militare, quello puro, la religione che predica la fratellanza, l'uguaglianza, l'abolizione della schiavitù, l'aspirazione a essere tutti uguali, sarebbe stato come avesse detto l'impero romano è finito, perché l'impero romano è stato costruito e mantenuto con la forza delle armi. Ascoltiamo rapiti il tono limpido e indomito della sua voce. Ma Teodosio ha scelto il cristianesimo di Teofilo, di vescovi che non possiedono nemmeno una delle virtù che dovrebbero avere i veri cristiani, la carità, il perdono, l'amore per il prossimo. Teodosio appoggia la violenza e la ferocia di Teofilo perché vuole sbrigarsi, perché Ambrogio da 2 anni lo tiene in pugno. Ma gente come Teofilo riuscirà a seminare solo ciò che conosce, ovvero violenza e distruzione, per raggiungere lo stesso obiettivo di Teodosio, il potere. E con la sua piccola mano crea un pugno che vibra di passione. Alla Chiesa, a uomini come Ambrogio e Teofilo, non interessa un impero potente. Essi, appena preso il potere assoluto in termini di fedeli, faranno di tutto per dividere l'impero romano, per poter comandare più facilmente, esattamente come ha fatto il vostro impero. La Chiesa cristiana diverrà Chiesa imperiale e il cristianesimo di Ambrogio e Teofilo segnerà la fine dell'impero romano. La sua voce è senza traccia di astio. A muovere il ragionamento della nostra maestra è solo la logica. Purtroppo, il tuo punto di vista è di parte. Tu sei pagana e da oggi puoi essere condannata a morte se praticherai la tua religione. Le radici del tuo pensiero non si sono potute sviluppare liberamente. Valeria torna a stringermi la mano, mi strattona perché mi sente fremere, ma non riesco a trattenermi. Prefetto Evagrio, non è così. Io sono cristiano, ma la penso esattamente come Ipazia, non solo. Penso che vescovi come Teofilo, con l'arma del terrore, forse riusciranno anche a convincere della povera gente a far finta di convertirsi, ma corrono il rischio di allontanare dalla Chiesa gente come me. Negli occhi infossati dell'uomo compare una specie di nebbia ironica. È un rischio che l'imperatore, il vescovo e Dio dobbiamo correre. e piega le labbra in un ghigno di chiarissima presa in giro. Poi abbandona i miei occhi e torna a rivolgersi ai Pazia. Ti sarei grato se risparmiassi ai miei uomini il compito di controllare questo edificio. Consegnate loro altari, oggetti sacri e tutto ciò che può avere attinenza con i vostri dei. I Pazia scrolla il capo, l'amarezza sul volto. Prefetto, pur essendo rispettosi del credo degli altri, questo gruppo è unito da un solo fine, lo studio, la ricerca per il progresso di tutti i popoli. Siamo tesi a delineare una traiettoria nuova, capace di mettere in collegamento le scienze matematiche con la scienza dell'essere e del divino, e i nostri oggetti sacri sono questi. E con un dito indica l'astrolabio sul tavolo dinanzi a lei. Il prefetto volge il capo verso di noi, poi fissa i Pazia con uno sguardo freddo, getta il rotolo di papiro sul tavolo accanto allo strumento e abbandona l'aula, seguito dai curiali. Faccio per muovermi verso di lei, ma Ipazia mi precede e si avvicina a me e Valeria si unisce a noi. Dalla finestra filtra un chiarore pallido. Oggi è una delle pochissime giornate in cui Alessandria è coperta da un velo di nuvole. Soffia un vento fastidioso. Uno stormo di corvi si rifugia sulle palme, cessando di emettere grida gelide. Ipazia con una mano sfiora un braccio di Valeria e con l'altra stringe quella di Nicandro in piedi accanto a lei. È importante sentirci così uniti. E cerca i nostri occhi con i suoi pieni di amarezza, soprattutto in momenti come questi. Pensavamo ormai d'aver toccato il fondo, mentre invece c'era un sottofondo nascosto, colmo di altre avversità. Per oggi direi di sospendere lo studio dell'astrolabio e di esaminare la nuova situazione. Ognuno liberi il proprio pensiero. Con una mano Nicandro si stropiccia i capelli arruffati. Nessuno di noi si tirerà indietro. Ora più che mai dobbiamo proseguire. Nella sua voce scordata torna ad affiorare la passione di sempre. Anche se posso sembrare cinico, credo che per adesso più urgente del problema della conversione al cristianesimo sia quello della cessazione delle sovvenzioni. Come tirare avanti? Soprattutto in questo periodo di ricostruzione. Questo è il vero problema da risolvere. Ipazia affonda la mano nel braccio di Valeria e cerca la sua opinione. Io, Nicandro, Davide e Samuel abbiamo ancora le nostre famiglie che continueranno ad aiutarci. Dovremmo dare una mano a Esichio ed Erculiano. E così dicendo cerca i loro sguardi. E tu, Shalim, tuo padre ancora insiste nel dire che devi lasciare il centro? Sì, e per questo non mi sostiene più. Penso che dovremmo cambiare modo di pensare, di agire. Basta con aiuti e sovvenzioni. Noi abbiamo bisogno di parecchio denaro se vogliamo ricostruire una buona biblioteca. Dobbiamo inventarci qualcosa. E cerco gli occhi di Pazia. Ancora non riesco a strapparmi di dosso il peso di questo quarto decreto. Ma sentirvi così decisi nel continuare mi è di conforto. Purtroppo anche la mia situazione economica non è rosea. Chi potrà aiutarmi è mio fratello Atanasio, ma non basterà. Per cui Shalim ha proprio ragione, dobbiamo inventarci qualcosa. Si morde le labbra. Dobbiamo mettere a frutto le nostre capacità inventive, costruire, che so, macchine per la pesca, per l'agricoltura, per la navigazione, qualcosa del genere. La voce stentorea di Samuel richiama la nostra attenzione. Dobbiamo solo mettere a frutto tutte le nostre capacità. E un sorriso pieno di fiducia si apre sulla sua faccia rosea. Shalim è portato a costruire macchine. Io parlo sei lingue. Davide è avvocato. Erculiano è specializzato in alchimia. Valeria ha già inventato 10 nuovi profumi, Esichio e Ipazia sono i migliori medici della città e Nicandro è il più grande esperto nella lavorazione del vetro. E allarga le braccia, soddisfatto. Vampe di gioia sprizzano fuori dai lineamenti tristi della mia maestra. Oh, erano mesi che non vi sentivo così vicini come oggi. Evagrio rappresenta l'impero romano, un impero di oltre 1000 anni e noi siamo un piccolo gruppo di studenti, 8 formichine in questo grande gioco della storia. Ma sulle nostre spalle di formichine portiamo la responsabilità di essere gli ultimi eredi di quel nucleo di uomini che da 7 secoli si è messo a indagare per scoprire il mondo che ci circonda. E noi sappiamo quanto grande sia questa responsabilità. Eppure, poco fa, quando parlavo, io non rappresentavo anche voi, io ero tutti voi. E il prefetto l'ha percepito. Io sentivo i vostri pensieri dentro di me e non ci sarà decreto imperiale che potrà cancellare tutto quello che è stato seminato. Ci ci lascia? Corre al tavolo, afferra lo strumento, lo porta accanto a noi, in mezzo a noi. Ci cerca con quegli occhi pieni di entusiasmo. L'abbiamo costruito noi, ne conosciamo l'uso, abbiamo modificato il vecchio astrolabio, ci aiuterà nella conoscenza del cielo. Siamo giovani. Io e Nicandro, che siamo i decani, abbiamo solo 23 anni. Riusciremo a superare tutti gli ostacoli. Anche se saremo costretti a dedicare solo metà giornata allo studio e alla ricerca, nell'altra metà lavoreremo per essere liberi di studiare, di scrivere il nostro pensiero libero. Mentre parla, capisco che la mia vita viene tenuta accesa solo da lei e mi sento trasportato dalla sua fede. Ipazia sprigiona una luce interiore di tale forza che la sua energia dà ala e senso alla mia piccola, unica, irripetibile vita.